Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Bene, bene, siamo insieme, sono le 11.07, accanto a me il dottor Franco Confalonieri, il nostro amico del venerdì. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Oggi parleremo di vacanze, cercheremo di trovare la ricetta ideale. Sì. Lei in vacanza non andrà? Non andrò, forse una settimana a fine agosto, però sono pronto a parlare per tutti quelli che andranno in vacanza, magari anche per qualcuno che non va, ma vuole concedersi un po' più di benessere durante il mese di agosto. Magnifico, abbiamo Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, un altro ospite già in linea, ma che vi svelo dopo il sommario. In vacanza, nel segno dello sport o del relax? In spiaggia con il costume giusto, anche per lui. Un cuoco a 5 stelle. Allora, come avete sentito dal titolo del nostro sommario, oggi ci dividiamo in due grandi gruppi. Nel vacanza, nel segno dello sport e quindi attività fisica go-go, oppure del relax in panciolle, dottor Confalonieri, ma non solo. Un ozio creativo, vogliamo suggerire. Sì, diciamo una vacanza dedicata alla forma fisica o una vacanza dedicata al piacere intellettuale, alla lettura, alla musica e quant'altro? Vediamo un po', tra i nostri ascoltatori, se prevalgono coloro che in vacanza si dedicano al corpo, coloro che in vacanza si dedicano alla mente. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde a vostra disposizione, i messaggi come sempre al 349 238 6666. E in linea con noi ed è tornato a trovarci il professor Giampaolo Perna, direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht. Buongiorno professore. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io direi che iniziamo subito a invertire i ruoli, perché il professor Perna come psichiatra, e lo conosciamo, è intervenuto tante volte in trasmissione e abbiamo scoperto che è un accanito sostenitore dell'attività fisica. Il dottor Franco Confalonieri ci stupirà forse, perché come medico sportivo potrebbe suggerirci invece un po' di relax. E allora, che cosa succede, professor Perna? Ma succede semplicemente che le neuroscienze stanno dimostrando in maniera sempre più consistente come occuparsi del proprio corpo in termini di allenamento fisico regolare vuol dire avere un grande vantaggio in termini di efficienza mentale, di protezione da molti disturbi. Quindi proprio sul benessere di tipo psicologico, di tipo mentale, l'esercizio fisico diventa una panacea, per cui per quello che io sostengo con grande forza il fatto che va bene riposarsi sotto un ombrellone, ma se c'è la possibilità di farsi qualche bella nuotata regolare, di farsi una corsettina quando scende il tramonto e arriva l'aria fresca, vuol dire aggiungere del benessere mentale in più al piacere del relax e della lettura. Insomma, al nostro cervello, professor Perna, piace l'attività fisica, ma forse ai nostri muscoli, dottor Confalonieri, invece piace, diciamo, un po' di riposo, di stacco. Perché? Esatto. Ovviamente tutto quanto detto dal professor Perna mi trova completamente d'accordo, però soprattutto per coloro che fanno attività fisica continuativa durante l'anno, credo che il riposo o una riduzione del carico di allenamento e di attività possa essere fondamentale e aumenti il livello di efficienza fisica e di benessere, proprio perché attraverso il riposo noi assorbiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno e miglioriamo il nostro livello prestativo e di efficienza. Questo per relativamente a coloro che fanno abitualmente sport, agonisti o amatori. E anche coloro che si dedicano allo sport, soprattutto d'estate, dovrebbero dedicare la stessa attenzione alla giornata in cui fanno l'attività, scegliendo quindi il tipo di attività migliore, ma anche alle giornate in cui invece privilegiano il riposo, il piacere intellettuale, perché un'attività intervallata fra esercizio fisico e relax consente sicuramente una salute migliore, una salute maggiore. Quindi riposo per chi ha fatto sport tutto l'anno e un'attività fisica alternata con il riposo per chi invece sceglie l'estate per dedicarsi allo sport. Salvo ci scrive: durante le vacanze mi piace dedicarmi al corpo, nel senso che mi piace mangiare, e alla mente, nel senso che mi piace non pensare a nulla. 820 24 0024, questo è il nostro numero verde, e quindi se volete intervenire, scoprire con noi la ricetta giusta per il vostro riposo, che magari sicuramente troverete combinando più ingredienti tra di loro, 349 238 6666, se invece preferite lasciarci un messaggio. Una mela al giorno. L'avevamo promesso e l'avevamo lasciato un po' in sospeso, ma adesso provvediamo subito, perché si ricorda, dottor Confalonieri, avevamo parlato di nuoto, di piscina e quindi di forma e anche di costume. Sì. E Dino Del Corso aveva suggerito, che è un curatore d'immagine, il costume giusto per noi signore. E lei era un po' ansioso di capire quale costume indossare, il tempo non ci aveva permesso di suggerirle il costume adatto, ma io ho invitato nuovamente Dino Del Corso, che è qui in linea con noi. Dino, benvenuto. Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo dell'altra metà del cielo. Ci occupiamo dell'altra metà del cielo, anche se c'è poca scelta per noi maschi. Slip o calzoncini? O boxer. Tendenzialmente sono quattro i capi che l'uomo può scegliere. Sono gli slip, il parigamba, il boxer e il pantaloncino. Sì. Sicuramente lo slip è quello maggiormente usato quando uno vuole una bronzatura più uniforme e più completa, anche se bisogna considerare che ci sono slip a vita bassa che sono sicuramente adatti per chi ha un fisico asciutto, ben scolpito dalla palestra e anche tendenzialmente alto. Sì. Consiglio lo slip invece quello alto per quelle persone che hanno la pancia un po' in risalto e quindi hanno la parte del busto un pochino più sproporzionata rispetto al resto del corpo. Sì. Sicuramente le altre varianti, quelli il tanga piuttosto che il perizoma, le lasciamo stare, infatti. Per carità. Per carità, in altra sede. Sicuramente poi abbiamo il parigamba, che è uno slip che è un mix tra il pantaloncino e lo slip stesso, è adatto solo alle persone alte perché non permettono di nascondere, anzi mettono solo in evidenza. Diciamo che il costume, il classico pantaloncino, quello che arriva al ginocchio, è quello più utilizzato perché è la variante più che permette in qualche maniera di essere più utilizzata sia per giocare che per andare in spiaggia. Poi per l'uomo una polo piuttosto che una t-shirt infradito va a posto tranquillamente, ed è anche sicuramente il costume da bagno che può essere adatto a tutte le persone. Con pancia o senza pancia? Dottor Confalonieri, come la vedremo quest'estate a bordo piscina? Ma a bordo piscina vestito, perché è un ruolo istituzionale. Al mare direi col box, perché è la comodità, ti consente di uscire a casa al mattino con quel capo, stare in spiaggia, fare il bagno, asciugarsi e tornare a casa senza cambiarsi, e la comodità in vacanza viene prima di tutto, credo, no? Professor Perna, posso farla anche lei questa domanda un po'? Io sono per lo slip. Lei è per lo slip. E se lo può permettere, allora? Beh, insomma, permettere, diciamo che forse qualche anno fa un po' di più, però bisogna permettersi, ha ragione, bisogna permettersi, è vero. Allora, grazie a Dino Del Corso per essere stato con noi, buona giornata. Vacanze. E buone vacanze, Dino Del Corso. Grazie, arrivederci. Grazie. Pronto soccorso. Allora, di che partito siete? In boxer, slip oppure vestiti? Siete per il relax della mente oppure siete per l'attività sportiva? 800 24 0024. Abbiamo il professor Perna che ci aiuterà a staccare, perché professor Perna, è difficile passare dal lavoro alle vacanze. La testa continua, almeno i primi giorni, a tornare indietro. È vero, è vero. Purtroppo la testa tende a in qualche maniera essere incastrata e come un motore che a un certo punto, tolto le cose, continua a girare, no? Per cui bisogna essere capaci di non pensare. Il mio consiglio durante la vacanza è non pensate, cercate di fare vuoto mentale. Per quello l'attività fisica o la lettura o il relax o quello che vogliamo permette alla mente di staccare dal suo abituale pensiero, no? Questo aiuta proprio a entrare in una specie di stato meditativo che è molto ristoratore per la nostra mente e per il nostro corpo. Ricordiamoci che se la mente è rilassata, poi il corpo ne trae beneficio. Quindi, a proposito di quello che diceva Confalonieri, sono d'accordissimo su un punto centrale. Allora, il relax è fondamentale, l'attività fisica va fatta con regolarità, ma basta fare mezz'oretta tre volte alla settimana, non bisogna ammazzarsi ore e ore di nuoto, tennis, eccetera, eccetera, ma bisogna mantenere il corpo attivo, forse rimanere, come dire, 24 ore, tipo lucertola sotto il sole, a leggere e basta, ecco, quello potrebbe essere forse non ideale, però sicuramente alternare due cose sono importanti. Dottor Confalonieri, c'è un'attività fisica più rilassante di un'altra? Ma indubbiamente... Che riesce a farci staccare? Adesso siamo tutti appassionati di nuoto. Beh... Perché coi mondiali ci verrebbe ci tutti viene da... viene proposto, magari... Pensiamo anche con un pochettino di nuoto di avvicinare la nostra forma fisica a quella dei nuotatori e delle nuotatrici che vediamo in televisione. Non è così facile, ma insomma è possibile. Quindi il nuoto sicuramente adesso attrae, poi proprio la stagione, il caldo, la disponibilità di acqua portano a nuotare. Ed è una delle attività più raccomandate, nel senso che è un'attività di tipo aerobico, è un'attività che impegna la muscolatura in modo non stressante ed è quindi un'attività che ha degli benefici immediati e importanti anche per chi abitualmente non fa sport. Indubbiamente è un'attività difficile, complessa dal punto di vista motorio e da questo punto di vista se scegliamo di fare il nuoto magari scegliamo di fare lo stile che ci riesce meglio o meno peggio e insistiamo soltanto con quello stile senza pretendere di impararne altre per fare proprio un'attività che sia la più continuativa e la più efficace possibile. Le altre attività aerobiche vanno ugualmente bene, penso alla bici, penso alla canoa, al canottaggio, penso al cammino o ma eventualmente staccare, alla corsa. Mi scusi, lei suggerisce uno sport individuale o uno sport di gruppo? Allora, per staccare mentalmente indubbiamente lo sport di gruppo serve di più perché c'è la componente del divertimento e della competizione che ci consentono di portare via la testa maggiormente. Però gli sport di squadra o i giochi sportivi sono maggiormente a rischio proprio perché essendoci una serie di situazioni motorie non prevedibili, se non siamo allenati rischiamo di farci più male. Essendoci lo stimolo agonistico rischiamo di andare oltre. Nello sport individuale questo non avviene. E comunque anche lo sport individuale consente di staccare, se non altro, perché in fase di preparazione, in fase di attività, in fase di defaticamento, saremo liberi da familiari, telefonini, mini computer e quindi da tutto ciò che non ci consente di essere davvero in vacanza. Questo secondo me in questa fase in cui siamo sempre raggiungibili è un valore aggiunto dello sport da non trascurare. Allora, intanto è in linea con noi Raffaele Paganini. Raffaele, ciao, benvenuto, bentornato. Buongiorno Nicoletta, ben trovata, buongiorno ai vostri ospiti, come va? Noi bene. Io volevo subito chiederti, Raffaele, tu hai ascoltato i consigli del dottor Confalonieri e del professor Perna e ti faccio fare un po' da giudice, insomma, che cosa hanno dato dei buoni consigli? Sono state dette, più che buoni consigli, sono state dette delle cose sagge, molto sagge. E io sono d'accordo su una cosa importante che ha detto il dottor Confalonieri, che le... Bisogna mischiare relax, essere tipo relax sportivo, fare qualcosa di questo genere, no? Questo potrebbe essere, nonché una splendida e salutare lettura sotto l'ombrellone che non guasta mai, quella ci sta sempre bene. Senti. Però chiaramente poi è sempre legato, è sempre molto soggettivo, perché ad esempio nel mio caso proprio personale, comunque di danzatore, di artista che ha solo 4, 5, massimo una settimana di vacanza, di ferie, perché poi riprendo a lavorare, allora in quel caso io non posso rilassarmi al 100%, ma devo assolutamente fare un relax sportivo, quindi magari ecco fare delle cose aerobiche, come potrebbe essere giustamente la bicicletta o il nuoto, però non mi posso fermare definitivamente, sarebbe poco salutare per la ripresa poi dell'attività. Quindi tra l'altro Raffaele riprendono i provini per Academy, vero? Adesso ripartiamo subito, fortunatamente questa trasmissione ha avuto un buon esito e la riprenderemo in ottobre iniziano i provini, dopodiché andiamo avanti per qualche mese cercando questi nuovi allievi per Academy e poi su Rai 2 ricominciamo dal 23 gennaio riprende le 12 o 15 puntate di appunto di Academy. Insomma, non vi fermate mai, quindi dovete assolutamente nel breve tempo della vacanza ricaricarvi, Raffaele. Assolutamente, sì. Ma io penso che se ben fatto, come tutte le cose, se fatta nella maniera giusta, nella maniera consona, Basta anche poco, basta relativamente poco, voglio dire una settimana secondo me. Senti, ma Raffaele, tu il tuo primo giorno di vacanza, che cosa fai? Quando ti svegli, il primo mattino, alla mattina dici, ecco, oggi sono in vacanza, cosa fai? Appena mi sveglio sicuramente la prima cosa che farò, caricherò le valigie. Vedi? Sulla macchina o non so, magari. Tocca anche a te. Ma sì. Perché no, poi quando c'è da caricare le valigie, almeno a casa mia, poi tutti hanno qualche cosa da fare e scappano. No, io sono il primo. Ecco, allora gli altri scappano tutti. Raffaele, allora facciamo una socia. Intanto ti abbraccio, ti ringrazio per essere stato con noi. Riposati. Grazie. Raffaele. Ti ringrazio molto e ringrazio i tuoi ospiti, ci sentiamo presto presto. Buona estate a tutti. Grazie Raffaele Paganini. Ci scrive Pierluigi da Verona, ciò che piace di più è sicuramente il più rilassante. Professor Perna, tante volte però siamo così stanchi e confusi che non sappiamo neanche dove orientarci. Abbiamo voglia di tutto, però non abbiamo la forza di iniziare nulla. È verissimo, il problema è quello di avere una fase di decantazione, cioè... Se io, ti faccio un esempio, insomma, sì. Io sarei in vacanza da oggi in poi, però ho lavorato per 3 giorni di fila dalla mattina alle 20 di sera, per cui non è che posso in questo istante immediatamente sentirmi in vacanza, devo avere quei 2 o 3 giorni in cui riprendo, come dire, rallento un attimo, sistemo le mie piccole cose, quindi mi adatto anche alla vacanza, perché bisogna anche adattarsi a quella, poi inizierò a pieno a gustare del periodo. Quindi è verissimo di non bisogna preoccuparsi del senso un po' di spaesamento, sbandamento, di non lucidità che si ha immediatamente. Questo ovviamente dipende dall'entità del lavoro, perché è chiaro che se io ho un'attività che è frenetica, lo stacco immediato mi provoca questa sensazione un po' di disagio. Se io invece sono riuscito in maniera più intelligente rispetto a quello che ho fatto io a, come dire, rallentare un attimo nei giorni che si avvicinano le vacanze, allora posso partire veramente subito a gustarmele. 800 24 0024 se volete intervenire in diretta per raccontarci la vostra ricetta per il riposo, anche per raccontarci una vacanza che non è andata granché bene, magari avete sbagliato qualche cosa, possiamo riaggiustare il tiro. Intanto, dottor Confalonieri, lei che cosa? Lei non andrà in vacanza, ma che cosa farà per staccare un po'? Perché quando tutti gli altri sono in vacanza ci viene un po' voglia, anche se lavoriamo, di rallentare un po' il passo. Sì, assolutamente. Comunque lo spazio a disposizione è un pochino di più e io continuerò a dedicarmi a quella che è la mia malattia, che è la lettura, che è proprio una forma di malattia. Sono un bulimico della lettura e quindi in vacanza non mi sembra vero di non avere più solo lo spazio notturno, ma anche durante il giorno di potermi ritagliare degli spazi. E poi cercherò, come ho fatto in passato, di alternare il nuoto, che è lo sport che faccio un po' durante tutto l'anno anche per oggettiva comodità, con le camminate. Amo molto camminare, trovo che sia comunque un'attività estremamente efficace, estremamente utile, estremamente importante, poco traumatica. Tutti possono farlo. Tutti lo possono fare, variando magari il percorso, inserendo un po' di salita, un po' di discesa, l'ambientazione. E quindi, ecco, la mia vacanza sarà all'insegna, o comunque questa fase dell'anno sarà all'insegna della lettura e del cammino. E a proposito di lettura, in linea con noi abbiamo Andrea Vitali, che torna a trovarci. Andrea, ciao. Eccoci. Ciao. Ma insomma, non stai mai fermo, adesso finalista anche al Campiello. Ma là? Sì, è vero, in effetti lo ammetto. Senti, ma è il lago che ispira? Beh, il lago sì, ha sempre avuto una grande suggestione, quindi nel mio caso, poi dopo c'è chi si fa ispirare dalle montagne, dal mare, dai boschi, eccetera. Ma per quanto mi riguarda il lago è fondamentale, perché è proprio protagonista di tutte le storie. Sì, almeno il Cappello. Almeno il Cappello, esattamente. Senti Andrea, tu come scrittore come ti riposi? E poi mi racconti come ti riposi da medico, cosa suggerisci anche ai tuoi pazienti? Allora, da medico consiglio una vacanza rilassante nei posti che uno predilige, mare, montagna, eccetera. Personalmente, come scrittore, il mio ideale di vacanza sarebbe quello che fece Totò in un famoso film in cui, non avendo i soldi per andare in vacanza, chiuse porte persiane, fece finta di non esserci e invece stava in casa bello tranquillo da solo a farsi gli affari suoi. In quel caso lì per me vorrebbe dire leggere e soprattutto scrivere. Senti, quindi non è una brutta idea, eh? No, questa, si stacca tutto, telefonini un po', il dottor Confalonieri, che tra l'altro è un tuo grande ammiratore, sì. È diventato un po' rosso. No, perché qualche volta l'ho fatto, e non neanche così raramente, ho annunciato a tutti che ero via per un 3-4 giorni, non ho mai osato fare la settimana, e invece stavo a casa mia, tranquillo, tutto staccato, e recuperavo davvero profondamente, quindi mi ha un po' beccato, direi, Vitale, uno dei miei piccoli artifici o trucchetti. Sì, poi è bellissimo quando qualcuno suona al cancello o alla porta a guardare dalla persiana e fa finta di niente. No, dai. Ma sì, per 3-4 giorni. Senta, professor Perna, mi venga in... io non riuscirei mai a farlo. Come mai? È un problema? Ma no, non credo. Penso che dipenda dalle predisposizioni individuali, insomma. C'è chi può, c'è chi riesce, c'è chi no. Uno non si deve mica sentire in colpa perché non riesce. No, certo. Però guarda, Andrea, mi hai dato un'idea. Proverò di mezz'oretta in mezz'oretta. Ogni tanto non ci sono più per nessuno. Andrea, dove andrai in vacanza tu? Io ho fatto fin troppe vacanze quest'anno, perché col premio Strega, col Campiello, sono stato in giro parecchio, per cui quest'anno niente vacanze, e assolutamente casalingo, a lavorare come medico e a scrivere qualche storia. Mi raccomando, noi siamo sempre qua che ti beviamo, come si dice. Andrea Vitali, ciao, grazie, buona giornata, grazie, buone a voi, vacanze. Buona estate. Andiamo a Grosseto, ci aspetta invece Livio, chissà se ha da darci una ricetta. Livio, anche lei come Totò, si blinda in casa e fa finta di non esserci? Pronto? Buongiorno Livio. È caduto Livio. Voilà, siamo tornati e Livio ci aspetta da Grosseto. Buongiorno Livio. Buongiorno, ce l'abbiamo fatta questa volta. Ce l'abbiamo fatta Livio, meno male. Sai che le stavo chiedendo, ma la linea poi è caduta, se lei ha mai fatto come Totò, come ci raccontava Andrea Vitali, sbarrato a casa, facendo finta di essere partito, staccando con tutto e con tutti. No, non l'ho mai provato. A casa, ma senza far finta. Senza far finta. Livio, cosa farà lei? Il problema contrario. Quando vado volentierissimo in vacanza, sono subito al 100% in sintonia con la vacanza, ma rientro è un disastro perché non riesco più a prendere i ritmi. A volte ci metto già un giorno o due giorni di blackout totale. Sì. Addirittura una volta sono stato una settimana ecco, quel caso come Totò, ma al contrario, chiuso in casa senza riuscire a uscire perché non so, mi spaventava ricominciare. Cioè, sì, Livio, è molto frequente questa un po' l'ansia nella ripresa. Ci sono delle persone che dicono non sarò più capace. Professor Perna, vogliamo dare una mano a Livio? Ma la prima cosa è sapere che è normalissimo avere alcuni giorni in cui uno deve riadattarsi, quindi non spaventarsi se per intenderci la prima settimana si viaggia a regime ridotto. Accettando questo già uno è un pochettino più tranquillo, perché è chiaro che se si aspetta di funzionare a ritmi immediatamente identici a prima è sbagliato, anche perché per fortuna la vacanza rallenta tante cose, quindi spesso, come dire, ci permette non solo di fare cose nuove, ma anche di rallentare un attimo, e quindi ci troviamo in qualche maniera ributtati nel solito ritmo. Peraltro, francamente, la vacanza è una cosa e il lavoro è un'altra, per quanto il lavoro sia bello, ma la vacanza è un momento anche più piacevole, di maggiori emozioni positive, per cui noi passiamo da una fase positiva di relax a una fase un po' più stressante, diciamo così, e spesso con alcune connotazioni negative, e quindi è difficile. Bisogna avere solo tanta pazienza, dare al nostro corpo e alla nostra mente il tempo di abituarsi. Professor Perna, ma vorrei coinvolgere anche il dottor Confalonieri. Dai messaggi che stanno arrivando, per molti dei nostri ascoltatori, considerato anche il momento un po' difficile che stiamo vivendo, la vacanza, quest'anno in particolare, diventa fonte di ansia. Insomma, il lavoro, bene o male, ci porta, dato che dobbiamo fare, lontano, cioè, nelle preoccupazioni, e quindi ci dà quell'impressione di gestire un po' la situazione. Andare in vacanza, ma ritorna, no? Frammentata questa idea in tanti sms, ecco, ci fa venire il vuoto da lavoro, in un certo senso. Dottor Confalonieri. Sì, questa è un'esperienza che, a parte, ho vissuto personalmente più volte, poi riscontro in tante persone che conosco e che usano magari proprio lo spot per cercare di curarla. Cioè, se è una fase di ansia, di preoccupazioni, di paure, di tensioni, durante l'anno le gestiamo attraverso il lavoro, le allontaniamo, in vacanza c'è molto più tempo per pensare e quindi il peso di queste tensioni, di queste ansie, di queste preoccupazioni aumenta molto. E allora la vacanza non è più un momento di benessere, ma diventa quasi un periodo peggiore di quello lavorativo, proprio perché siamo da soli con le nostre ansie. C'è qualche segreto per affrontare questo problema che credo coinvolga tanti fra i nostri ascoltatori? E intanto lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, forse hanno una ricetta, un'indicazione da darci. 800 24 00 24, professor Perna. Di ricette che siano magiche non ce ne sono, dipende probabilmente dal modo in cui uno vive durante l'anno. È chiaro che se una persona è fortunata, fa un lavoro che gli piace, appassionata, diventa la vacanza può diventare quasi un problema. Io parlo di me stesso, quindi le esperienze personali contano. Io sono fortunatissimo, faccio un lavoro che adoro, che mi piace, e quindi in un certo senso non staccherei mai, cambierei semplicemente il modo di farlo, invece di magari vedere pazienti o di dedicarmi alla burocrazia, leggerei. Ma che cosa leggerei? Magari leggo dei testi che riguardano le cose che mi piacciono, piuttosto che vado a trovare persone del mio campo in giro per il mondo. Quindi dipende molto da come noi siamo. Tanto più siamo fortunati a fare qualcosa che ci piace, tanto più la vacanza diventa un complemento. Tanto più siamo sfortunati, facciamo qualcosa che è un peso, tanto più la vacanza diventa così importante per noi da essere un problema, perché a quel punto lì è come se dovessimo giocarci quell'area di benessere della nostra vita in quel momento lì. Quindi il segreto è costruirsi durante l'anno quello che è il benessere e il piacere di passare il tempo. Per chi, allora, per chi può, per dottor chi può. Professor Perna. Esatto. Io saluto Cecilia Shaili che è venuta a trovarci. Cecilia, ciao, benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno. Oggi abbiamo chiamato un po' di amici di Essere Benessere per aiutarci a trovare la ricetta delle vacanze giuste, delle vacanze riposanti. Si fa fatica anche andare in vacanza di questi tempi, non solamente perché mancano i soldi, ma anche perché, Cecilia, le preoccupazioni ci ancorano. E quindi capita anche a te di stare con la testa al lavoro mentre magari potresti concederti un po' di meritato riposo? Assolutamente sì, mi sveglio anche più presto di solito in vacanza, un po' perché mi piace contemplare la natura, adesso sono in campagna, quindi con i miei strumenti, allora ho l'ansia anche di divertirmi proprio nella natura, ascoltando i suoni e il silenzio. E poi mi piace anche molto suonare, finalmente, liberamente. E col mio compagno adesso, che è tenore però anche percussionista, stiamo finalmente iniziando a creare un duo, e quindi è veramente un divertimento stare nella natura. E saranno fortunati anche i vostri vicini di casa, no? Ma per fortuna siamo isolati, non a caso abbiamo scelto un posto dove si possa suonare. No, perché uno si accuccia, perché Cecilia, uno si accuccia lì ai bordi del vostro giardino ed è fatta. E ha delle anteprime fantastiche. Fantastiche. Peccato. Senti, invece Cecilia, tu comunque ti stai preparando perché poi sarai al Blue Note, vero? A ottobre. Esatto, c'è questo nuovo album che è praticamente finito, però sto autoproducendolo, quindi con tutte le difficoltà e anche le scommesse di decidere di produrre un album. E lo presenteremo al Blue Note il 14 ottobre, quindi è anche il mio debutto al Blue Note, quindi anche un po' con l'arpa elettrificata, con l'arpa più... Io già faccio musica crossover, quindi al confine tra i generi. Questo album è un album che ho registrato con un'arpa secolare, quindi ha più un carattere classico contemporaneo. Ma al Blue Note questi brani si amplieranno con ampi spazi all'improvvisazione e a sonorità anche rock, quindi sto tirando fuori il mio animo rock, e quindi tra un silenzio e l'altro ogni tanto escono fuori. Quindi il segreto di Cecilia, mentre noi cerchiamo di riposarci, lei lavora e poi ci io dà. Io faccio un gran chiasso. Un gran chiasso. Cecilia, un abbraccio, grazie per essere stata grazie con noi. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie ciao. Cecilia. Michele da Bari, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, insomma, al dottor Confalonieri, sì, un consiglio per trascorrere una settimana di vacanza, diciamo, all'insegna del benessere, del relax, dal momento che accuso un periodo di spossatezza e stanchezza fisica. Michele, dove andrai in vacanza? Io vado in un centro benessere in montagna, a 1200 metri. Da Bari, naturalmente, da Bari si sposta. Dottor Confalonieri, lei il mare ce l'ha tutto l'anno e giustamente va in montagna. Dottor Confalonieri. Ma il mio consiglio può essere quello di non farsi schiavizzare all'interno di questo centro benessere, quindi di seguire quelle che sono le opportunità e le indicazioni che troverà, ma magari interpretandole con una certa libertà. Quindi dedicarsi ad alcune delle attività proposte che sicuramente gli faranno bene, ma magari per un terzo del tempo che ha a disposizione. Dedicare un terzo di questo tempo invece a un'attività fisica anche molto moderata, molto blanda, come camminare ad agio, come prendere una bicicletta e uscire con tante pause, e il restante terzo dedicarlo a se stesso, e quindi o al piacere intellettuale o proprio al far nulla o alla ricerca del prodotto tipico, del vino tipico, del cibo tipico, che potrà assaggiare direttamente lì o assaggiare quando torna portandosi dietro un pezzettino di vacanza. Ecco, il rischio che può correre, essendo già un po' spossato, secondo me, è di essere vittima all'interno di questo centro, vittima inconsapevole di nuovo di giornate assolutamente programmate, impostate e alla fine forse anche un pochino stressanti o ansiogene. Quindi questo è un po' il mio consiglio. Professor Perna, volevo chiederle, c'è un tempo minimo che è utile per rigenerarsi? Poi lo giro anche la domanda al dottor Confalonieri. Adesso siamo tutti più portati, costretti a fare delle vacanze mordi fuggi. Ci sono persone che per scelta, anche per tendersi a permettere, decidono di rompere le vacanze in due parti, oppure chi decide di farne un periodo più lungo tutti insieme. Ma ci sono delle ricerche che magari sono andate ad indagare, a capire qual è la durata della vacanza ideale? Guarda, io direi che una settimana è il minimo reale, perché è il momento in cui uno fa anche un weekend lungo. Nel weekend lungo è molto difficile riuscire a staccare, abituarsi e godere e poi ritornare. Il rischio che il weekend sia una pausa, soprattutto io parlo dell'estate, perché durante l'anno sicuramente è molto utile, ma come stacco dopo un anno stressante i 7 giorni diventano il minimo. È chiaro che l'opzione di 10 giorni, 2 settimane, ma non tutti possono permetterselo, certo, sarebbe ottimale, però direi 7 giorni. Se fate di meno rischiate di non entrare neanche nel ritmo e nell'effetto positivo delle vacanze. Questo per un motivo fondamentale, perché lo stress è gestito da alcuni ormoni, e questi ormoni non sono ormoni che scompaiono in poche ore. Gli ormoni, soprattutto quelli steroidei, che sono il cortisolo, eccetera, che sono gli ormoni dello stress, come si innalzano e condizionano piano piano l'individuo nello stress cronico, così quando stacchiamo la spina continuano a essere alti e hanno bisogno di diverso tempo per scendere. Sicuramente, ripeto, meno di una settimana diventa inutile. Non inutile, diventa non pienamente utile. Esattamente. Professor Perna, ci ha suggerito una scusa da dare al nostro capo. Non posso tornare prima di una settimana, devo far scendere gli ormoni. Dottor Confalonieri, potremmo dire così. Ma intanto andiamo a Venezia, perché ci aspetta Fabio. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, a tutti voi. Ma lei vive Venezia, Venezia? No, si dice Venezia, ma quasi tutti invece stanno nella cintura intorno a Venezia. Però ce l'avete lì a portata di piede. Sì. Bella fortuna. Senta Fabio, e lei cosa farà in vacanza? Riuscirà ad andarci? Anche perché in ogni caso, voglio dire, a me piace anche il campeggio, quindi sono fortunato, ho tanti amici che dicono no, il campeggio no, perché non lo so. In realtà, cioè, soprattutto anche in un momento dove magari andare in un hotel o in un appartamento, magari quest'anno magari no, però come si, cioè, il campeggio invece è a portata di tutti, non credo che ci sia crisi per se si vuole. Certo. Tanto una vacanza... La vacanza è avere bisogno di tempo, non servono soldi, almeno per me. È vero. È il tempo. Il tempo sicuramente fa la differenza. Quindi per Fabio vacanze in campeggio? Ma quest'anno anche sì, poi magari a settembre-ottobre, non lo so. Tanto appunto a me piace anche andare per esempio in Friuli, ci sono bellissimi posti, non spendo una follia e è comunque vicino a Venezia, per dire. Certo. Senta Fabio, mi scusi, a lei quanto tempo ci vuole per riposarsi? Sì, Sì, anche la signora che mi ha preso prima la telefonata, io dicevo che ci vogliono 15 giorni, perché, almeno per me, dopo io non lo so, sì. Gli altri, perché inizio la vacanza già il sabato, perché in realtà cioè, ci si sente in vacanza già per la settimana che verrà, no? E allora, poi io martedì inizio a sentirmi come in vacanza, sì. Cioè non mi sento più quella stanchezza. Perché iniziano a calare gli ormoni, no, professor Perna? Sì. Questa degli ormoni mi è piaciuta molto, la sfrutterò parecchio. Senta, e quindi, vabbè, 15 giorni è il tempo che serve a Fabio da Venezia per riposarsi. Fabio, mi raccomando, si riposi e ci sentiamo presto. Mi sento diverso, con più energie. Mercoledì, giovedì e venerdì mi sento in ferie, dopo però inizio già a pensare che torno al lavoro. Certo. Fare una settimana, non dico di oziare con no. troppi giorni, però una settimana è poca. Sì, faccio due lavori, qualche volta lavoro la sera, capisci? Quindi, certo. Una settimana è troppo poco, perché poi appena uno dice sono in vacanza devi già pensare che a fare il conto alla rovescia per tornare. Grazie Fabio. E siamo tornati e abbiamo Andrea che ci chiama da Brindisi. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Ci racconti per bene dove sta per andare, se va? No, io la verità proprio resta? Su questo volevo parlare. Cioè, secondo me questa roba delle ricette, 15-20 giorni, due settimane, l'unico modo, secondo me, parlo della mia esperienza, e ripeto, svolgevo un lavoro molto stressante per tanti anni nelle borse a Londra. Oh, quindi, mamma mia! A me è servito tantissimo, è servito ai miei amici, ai miei colleghi. Cioè, se uno riuscisse ad andare in vacanza quei 10 minuti al giorno, ma mentalmente, perché sicuramente lo sapete, ma è nell'inconscio che si formano i desideri, i sogni, eccetera, e se l'inconscio non fa differenza tra quello che uno vede e quello che uno immagina. Quindi se uno riesce quei 10 minuti al giorno nella postazione di lavoro, oppure mentre sta camminando per le strade di Milano durante la pausa pranzo, a immaginare di stare in un altro posto, comunque a rilassarsi, poi arriva in quelle 3-4 settimane di vacanza ad agosto già preparato e con un comunque molto più rilassato della gente, della maggior parte della gente che appunto arriva in quelle 4 settimane che vuole fare tutto e appunto si trova da questo stress di vacanza. Andrea, ma lei ce la fa? Sì, io ce l'ho fatta per tanti anni, ora ripeto, ora ho lasciato le borse, non faccio tutt'altro, sono tornato a Brindisi, però a me è servito tantissimo. Sentiamo cosa ne dice Andrea, stia lì, nel senso stia qui con noi. Sentiamo il professor Perna. Professore, la ricetta di Andrea mi sembra assolutamente sensata, difficile però un po' da seguire, perché sembrano pochi 10 minuti, ma poi alla fine si arriva a sera e i 10 minuti sono passati, non li abbiamo trovati per noi. Allora, è molto sensato, infatti quando ho dato la risposta prima, esattamente ho detto questo, dipende, cioè il significato della vacanza dipende da come ci siamo preparati durante l'anno. Allora, la capacità, perché questa non è questione di difficoltà, perché 10 minuti li troviamo tutti. Cioè, che ma lei li trova, dica, ad esempio? Io li sto trovando, ho imparato a trovarli col tempo, devo dire, ma i 10 minuti quotidiani più di rilassamento, di spazio proprio, più un 20 minuti di allenamento semplice, quindi mezz'ora dedicata quotidianamente o almeno 3-4 volte alla settimana alla propria tranquillità, al proprio corpo, hanno un valore inestimabile e permettono poi di godere delle vacanze immediatamente, come essere sostanzialmente allenati tutto l'anno. Poi quando bisogna fare la gara, cioè godere pieno di una situazione differente, lo si riesce a fare immediatamente. Se non siamo allenati, a quel punto abbiamo bisogno di ricarburare e perdiamo molto tempo delle vacanze. Quindi la ricetta, io sono Andrea è fantastica, Andrea. Quindi, insomma, 10 minuti al giorno per il riposo totale poi durante la vacanza. Ritorna l'idea della gradualità, tanto cara al dottor Confalonieri, anche per staccare. Andrea, buone vacanze. Sì. A voi, grazie. Grazie, grazie del suo suggerimento. Dottor Confalonieri, andiamo allora al programma di mantenimento e al programma invece per chi vuole iniziare a fare qualcosa? Sì, sottolineando che i 10 minuti al giorno vanno benissimo se poi riusciamo a attaccarci almeno i 10 giorni di vacanza. Io sono un fautore dei 10 giorni nel partito delle 1 o delle 2 settimane. Io i 10 minuti li faccio sempre, quando però mi mancano poi i 10 giorni non bastano. No. Da soli non ce la fanno. Ecco, allora, per chi ha fatto attività tutto l'anno e in vacanza vuole staccare, se vuole mantenere la forma fisica e i risultati raggiunti, direi che sono sufficienti 2, massimo 3 allenamenti a settimana. Ecco, quindi uno può rilassarsi, basta che 2 volte a settimana si dedichi all'attività che già faceva, quindi alla palestra, se si dedica prevalentemente alla forza, a un esercizio di tipo aerobico, se si dedica prevalentemente alla resistenza, 2 volte alla settimana per circa 60-90 minuti. Ecco, questo è il tempo minimo, con dei carichi di lavoro che devono essere molto simili ai carichi di lavoro che cui si sottoponeva durante l'anno. Ecco, quindi non ha perso nulla, può tranquillamente mantenere gli stessi carichi di lavoro, però basta che lo faccia 2 volte a settimana. Per chi comincia, direi che la ricetta del professor Perna era perfetta: 30 minuti è il minimo indispensabile, almeno 5 volte alla settimana. Io sì. I 2 giorni di riposo, di recupero, li considero sacri, quindi facciamolo 5 volte a settimana. 30 minuti è il tempo minimo, quindi magari iniziamo con 30 minuti e poi alla fine della vacanza arriviamo a farne 45, con un'intensità molto bassa all'inizio e crescente, gradualmente crescente nell'arco della vacanza. Il tempo minimo per vedere degli effetti, ripeto, sono 10 giorni, quindi 2 weekend lunghi con in mezzo una settimana, secondo me sono sufficienti a raggiungere dei buoni risultati. In linea con noi è arrivato Fabrizio Fontana. Ciao Fabrizio. E là, come va? Bene, tutti in forma. Tutti in forma. 1-2. Perché Fabrizio, oltre a essere direi una colonna portante di Zelig, è un grandissimo sportivo, è vero? Mi dicono così. È vero, mi mantengo, mi piace molto la socialità che dà lo sport, quindi per esempio il buon vecchio calcio è qualcosa che ti fa divertire, visto che tratto l'argomento, e però ti mantiene in forma, quindi ti permette di stare bene anche mentalmente, per poi creare sketch e allegria. Senti Fabrizio, a te quanto tempo ci vuole per staccare la spina? Ma io sono come i bambini, se sono, dormo, se devo creare mi attivo, quindi veramente poco. Poco? A quando vai in vacanza sei già subito in vacanza? Sì. Anche con la testa? Sì, mi adatto molto al posto in cui sono, vengo influenzato, può essere un bene o un male, però vengo influenzato dal posto e dalle persone che frequento, per cui energia positiva intorno sia sotto forma di posto, quindi natura meglio, e sia sotto forma di persone positive. Senti, possiamo portarti un po' in vacanza con noi, Fabrizio? Ti mettiamo nella valigia, poi ti tiriamo fuori. Ma io in valigia vorrei mettere anche il tuo amico Sergio Sgrilli. Ciao Sergio. Ciao Nicoletta, ciao a tutti. Come stai tu? Beh, io sono all'antipode, direi, di Fabrizio, eppure si può essere amici, nel senso che sono la cosa più lontana di quello che ha raccontato. Perché tu cosa fai? Calcetto neanche per parlarne, non ti muovi? Assolutamente no, nel fisico. E poi credo che veramente io invece influenzi in maniera negativa tutto quello che ho intorno. Io sono uno il classico comico felice e contento sul palco, ma che nella vita insomma ha un po' il rodo dentro. Gastrite, colite, ernia iatale, helicobacter, credo di aver fatto tutto. Sergio, allora ti devo invitare per le prossime puntate, perché sono dei temi forti di essere benessere, per cui ti invito, mi raccomando. Vedi qual è la differenza? A Fabrizio te lo vorresti mettere in valigia e tirare fuori all'occorrenza, invece a me mi inviti perché tratti di problemi importanti, vedi? Senti, a proposito, io volevo parlare, sono molto contenta che voi siate venuti a trovarci, perché voglio parlare ai miei ascoltatori di un'iniziativa che avete fatto molto bella insieme ad altri vostri colleghi comici, Giuseppe Giacobazzi, Paolo Migoni. Vogliamo raccontarla, è una raccolta, un'antologia di raccolti neri, editi scritti proprio appositamente per un'associazione, l'Associazione Italiana di Sindrome di Möbius, Onlus, di cui tu, Sergio, sei proprio testimonial. Ma naturalmente, raccontaci bene. Allora, facciamo così, dividiamo questo intervento in due parti, io sarò la parte istituzionale e invece Fabrizio sarà quella emotiva che vi spingerà a comprare questo libro. Sì. Io dico invece che ho conosciuto tantissime associazioni e da quando uno diventa un personaggio popolare ha tantissime richieste, sono rimasto colpito da questa malattia rara, sindrome di Moebius, che poi purtroppo rara non è, ma è considerata rara perché così le case farmaceutiche non ci investono alcuna lira. È una malattia brutta, nel senso che il bambino nasce senza la possibilità di muovere nessun muscolo nella faccia, quindi sì, non muove gli occhi, non muove la bocca, non fa espressioni e al 99% dei casi viene scambiato come un bambino autistico. Il problema è che spesso viene diagnosticata tardi, ma la ricerca, devo dire, si sta muovendo anche su questo fronte e delle iniziative... Diciamo che la ricerca si sta muovendo grazie a una persona che ha vissuto qualcosa di particolare, perché comunque è un ragazzo normale di 40 anni che vedeva negli occhi della sua bambina una richiesta incredibile d'aiuto, mentre tutti i professori continuavano a diagnosticare l'autismo, lui diceva no, non è così, si è informato lui, è andato in America e ha portato questa sindrome di Moebius e la conoscenza in Italia e ha fatto un'operazione molto particolare, si chiama l'operazione del sorriso appunto, e Giulia, che è la sua piccola, è tornata a essere una bambina normale. Insomma, e voi che siete nati per far ridere vi mettete al servizio di coloro che ridere non possono proprio a causa della malattia. Passerei la parola per un là proprio, perché abbiamo 30 secondi, a Fabrizio, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io cesellerei quello che ha detto Sergio, che è determinante, con il giusto apporto di allegria, perché a questo punto ci vuole il giusto connubio fra allegria e profondità, visto che il nostro libro è fatto sì di comicità, ma aiuta una cosa così importante. Quindi compratelo, perché ha due motivi fondamentali. Uno, quello dell'aiuto. Il secondo è che purtroppo ci sono tanti messaggi che passano di aiuti, di malattie, però spesso sono dimenticati. Però il fatto che noi si faccia ridere, secondo me, è determinante, perché può dare quella spinta in più per acquistare questo libro e fare beneficenza. E ricordiamo che proprio tutti i ricavati verranno devoluti a questa associazione. Fabrizio, grazie per essere stato con noi. Viva, un bacione. Un abbraccio a Sergio, al professor. Ricordiamo che il libro fa anche ridere, oltre far ridere, fa anche ridere. Questo... quindi motivo in più. Un motivo in più. Grazie allora e grazie al professor Perna, il dottor Franco Confalonieri. Grazie a tutti, buone vacanze. Buona giornata, buona partenza, buon tutto. Ci sentiamo domani. Essere e benessere.